letture di Radio 24. Mai sentito parlare dello Slenderman? È un uomo alto e pallido, privo di volto, che si dice faccia scomparire i bambini grazie ai suoi lunghi tentacoli. È il più famoso dei creepypasta. Un creepypasta è una storia dell'orrore che viene copiata e incollata su internet, si diffonde come un meme e rimane aperta ed editabile come una voce di Wikipedia. Può essere raccontata sotto forma di testimonianza, magari attraverso commenti su forum o siti contenitori come 4chan. Può essere accompagnata da foto o da file audio. Se il racconto ha successo, si arricchisce, muta forma, acquista attendibilità e finisce per ispirare prodotti collaterali che sfociano su canali YouTube o su Twitter. Come ogni tipo di linguaggio, anche questa forma narrativa a cavallo tra il racconto amatoriale e la leggenda metropolitana ha le proprie regole e i propri stilemi. Il più importante dei quali, l'unico che vede d'accordo tutti i cultori del genere, è anche il più semplice. La storia deve essere trattata come se fosse vera. Nella tradizione dei loro antesignani, le leggende metropolitane, appunto, o i racconti del terrore intorno al falò del campeggio, i creepypasta sono spesso in prima persona e raccontano fatti accaduti all'autore stesso o a qualche amico o conoscente. Insomma, la peculiarità della narrazione è la capacità di farla sembrare vera, o almeno di inserirla in un contesto plausibile. Una sorta di facciamo finta che, nello stile di The Blair Witch Project e degli altri mockumentary. Il più famoso personaggio creato da un creepypasta è Slenderman, una creatura molto alta, allampanata, pallida e con il volto del tutto privo di lineamenti. Spesso raffigurato con le braccia come tentacoli, il suo hobby preferito è rapire bambini, destinandoli a una fine non ben precisata. Lo Slenderman, a differenza di altri creepypasta, ha un papà, un luogo e una data di nascita ben definiti. Eric Knudsen l'ha infatti creato nel 2009 per il forum Something Awful, nell'ambito di una gara di Photoshop. Il suo successo, però, è stato talmente grande da aver ispirato tutta una serie di contributi collaterali che ne hanno alimentato a dismisura la mitologia con centinaia di foto, video, racconti ed articoli. Slenderman ha dato vita, tra le altre cose, a una finta serie documentaria e a un videogioco, e nel 2014 ha fatto la sua più lampante incursione nella realtà, balzando agli onori delle cronache statunitensi perché tirato in ballo come presunto movente per il tentato omicidio di una dodicenne da parte di due coetanee. I creepypasta fanno spesso riferimento al mondo dell'infanzia, ai ricordi che l'adulto ha della vita da bambino, alle paure sedimentate e mai completamente risolte, ai grandi mostri che affliggevano le nostre notti prepuberali, dai più fantasiosi, uno Slenderman che in fondo è una variante dell'uomo nero, al sempre efficace terrore del quotidiano, quando la minaccia si nasconde in ciò che normalmente rassicura. Un programma per bambini, i giochi preferiti o la propria casa. Anche l'era di internet ha dunque la sua forma di folklore, le sue piccole storie di terrore che, anziché essere tramandate oralmente davanti al fuoco nelle sere d'inverno, proliferano nei falò virtuali di forum e blog. Storie copy free, senza autore e senza una versione definitiva, un po' come erano le fiabe del folklore germanico prima che i fratelli Grimm, da bravi filologi, le raccogliessero e le rielaborassero in una forma letteraria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Laura Antonella Carli, Creepypasta, ecco il nuovo uomo nero dei bambini, pubblicato il 20 ottobre sulla rivista online L'Inchiesta. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Letture di Radio 24. Recentemente Roberto Viola, direttore generale dell'agenda digitale della Commissione europea, ha ricordato che l'Italia resta agli ultimi posti per uso di internet e copertura di banda ultralarga. Più che la mancanza di copertura, il vero problema però è la mancanza di informazione, come scrive Guido De Franceschi in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. Secondo i dati dell'Unione Europea, in Italia il 99,1% delle famiglie è coperto dalla banda larga fissa, ma soltanto il 51,1% ha un abbonamento con cui sfruttare questa potenzialità, a fronte di una media europea del 70%. E il 36,3% delle famiglie è coperto dalla banda ultra larga fissa, cioè superiore a 30 mega, ma pochissimi, soltanto l'1,9% delle famiglie nel 2014 a fronte di una media UE del 18%, se ne avvalgono davvero. Per quanto riguarda le zone rurali, cioè le aree con meno di 100 abitanti per chilometro quadrato, l'Italia è l'unico paese dei 28 ad avere una copertura di banda ultra larga pari a zero. La penetrazione in Italia della banda ultra larga fissa e persino quella della banda larga non è frenata soltanto dalla carenza di infrastrutture, ma anche da una domanda che, seppure in leggera crescita, è piuttosto timida. Oltre a un certo analfabetismo digitale che nel nostro paese è più diffuso che altrove, complice anche un'alta età media della popolazione, a deprimere la domanda c'è l'antica inclinazione nazionale per il telefonino, poi trasformatosi in smartphone. Un italiano su cinque, anche quando è acciambellato sul proprio divano di casa, utilizza esclusivamente connessioni mobili, un'abitudine che in Europa ci accomuna soltanto ai finlandesi e agli svedesi, che fin dai tempi in cui Nokia ed Ericsson furoreggiavano incontrastate, sono rimasti mobile addicted. In ogni caso, gli operatori privati da un lato e il Ministero dello Sviluppo Economico dall'altro fanno e programmano grandi investimenti per una più pervasiva diffusione della banda ultralarga. La strategia del governo, passato per vari stop and go e per qualche aggiustamento, prevede 12 miliardi di budget, 5 provenienti dal settore privato e 7 dalle casse pubbliche, così ripartiti, 2,1 miliardi dai fondi europei che sono gestiti dalle regioni e 4,9 miliardi dal Fondo Sviluppo e Coesione. Una delibera dell'agosto scorso del CIPE ha per ora sbloccato 2,2 dei 4,9 miliardi in carico al Fondo Sviluppo e Coesione, mentre in alcuni paesi come la Corea del Sud o il Giappone, ma non soltanto, si lavora avendo come punto di riferimento connessioni da 1 gigabit per secondo, cioè 1000 mbps, l'obiettivo italiano è quello di recuperare il tempo perduto e di allinearsi a quelle che sono le previsioni per il resto dell'Europa per i prossimi 5 anni. L'ambizione, avendo come termine il 2020, è quella di rendere alla portata del 100% della popolazione una connessione che sia al di là dell'asticella convenzionale della banda ultralarga, cioè ad almeno 30 mega, e una porzione tra il 50 e l'80% della popolazione, nonché tutte le strutture pubbliche, a collegamenti capaci di almeno 100 mega. E quello che avete ascoltato era un breve passaggio dall'articolo di Guido De Franceschi, La visione della fibra, dal numero di novembre del magazine Il. Secondo gli ultimi dati, solo il 43% della popolazione mondiale può accedere alla rete. E quello che è peggio è che il 61% degli utenti internet vive in paesi dove le critiche al governo sono soggette alla censura. Sempre più governi ricorrono alla censura tentando di imbavagliare il web. Nel frattempo, come dimostra la legge sui servizi segreti approvata dal Senato francese lo scorso luglio, la sorveglianza si espande e la privacy si comprime. Il che dà anche da pensare rispetto al forse eccessivo entusiasmo con cui abbiamo accolto la recente sentenza della Corte europea sui dati dei cittadini europei inviati alle data factory statunitensi di Facebook e compagnia. Il cosiddetto accordo Safe Harbor sta per essere ristrutturato e sottoscritto, con alcune modifiche che, più avanti e sulle spalle delle singole autorità nazionali, dovranno essere di nuovo passate al vaglio. Un primo dato, dunque, è evidente. Se nella percezione di buona parte dell'opinione pubblica occidentale Internet è un luogo di libertà e opportunità, altrove questa è una storia che non regge più. Anzi, il quadro che ne esce è di una pressione sempre più forte delle amministrazioni su compagnie private e cittadini. Attivisti dei diritti umani e giornalisti indipendenti sono i bersagli preferiti. Ma non è solo un problema di chi si batte per un mondo più giusto. Il 61% degli utenti di Internet vive in paesi dove critiche al governo, alle forze militari o alla legislazione sulla famiglia sono state soggette alla censura online. Il 58%, dunque quasi lo stesso perimetro, vive invece in posti in cui blogger e cittadini sono finiti in carcere per aver condiviso contenuti su argomenti politici, sociali o religiosi. Considerando che nel mondo 4 miliardi di persone sono tagliate fuori dalla rete, la prospettiva muta drasticamente. Semmai è una commodity, e neanche tanto visto lo stato delle connessioni italiane, per una minoranza di paesi. Secondo gli ultimi dati della Broadband Commission for Digital Development, di ITU e UNESCO, infatti, entro la fine dell'anno appena il 43,4% della popolazione mondiale potrà accedere al web. Dentro quella pur ampia minoranza c'è a sua volta una maggioranza che la rete non può viverla liberamente. Mi pare che il dato sia evidente. Internet non è per tutti. Internet non è libera ovunque. Dunque, molto semplicemente, non è quel paradiso che raffiguriamo. I temi più censurati sono le critiche alle autorità, le notizie su guerre e conflitti, quelle sulla corruzione per i massimi vertici statali o figure di spicco della finanza e dell'industria, i siti dei movimenti e partiti di opposizione, la satira. In generale, la libertà di espressione sembra essersi ridotta in 32 dei 65 paesi esaminati. In 42, per esempio, le autorità hanno richiesto a internet provider o utenti di eliminare contenuti su argomenti di un certo tipo e in 40 nazioni sono state imprigionate delle persone per aver condiviso informazioni. Non basta. Le leggi sulla sorveglianza si sono moltiplicate. In questo si è fatta sentire la strage di Charlie Hebdo, sebbene la tendenza sia registrata dal giugno 2014. In 14 paesi su 65 i governi hanno approvato nuovi provvedimenti che aumentano il controllo in maniera stringente e moltissimi hanno migliorato i loro strumenti. Fra i peggiori del mondo ci sono Cina, Siria e Iran. Fra i paesi che hanno perso più posizioni, Libia, Francia e Ucraina. L'Italia è inclusa nelle nazioni libere con un punteggio di 21, dove 0 è il livello migliore e 100 il peggiore. Una situazione da controllare. Si tratta pur sempre di un'erosione che sfiora un quarto del rating. Fra le aree verdi spiccano Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Australia ed Europa. Fra quelle gialle, parzialmente libere, ci sono Turchia, India, Colombia, Venezuela, Indonesia e Messico. La massima censura vige in Russia, Kazakistan, Cina, Birmania, Thailandia, Vietnam, Egitto, Cuba, Iran, Pakistan, Siria e molti altri paesi. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Simone Cosimi, Freedom House, Internet è sempre meno libera, pubblicato il 20 ottobre sulla rivista online Wired. I flussi degli immigrati devono essere regolati e chi delinque va punito. Quella sugli immigrati è una ferita scomoda, scrive Stefano Iesurum sul Magazine 7, spiegando poi che sono necessarie tre premesse. I terroristi non raggiungono i nostri lidi con i disperati dei barconi. Accoglienza, solidarietà, umanità non sono affatto sinonimo di cedimento all'invasione. Penso ci sia un po' di Mosè in ogni individuo che fugge per vivere meglio altrove, nell'interesse delle generazioni future. Detto ciò, non nascondiamocelo. Esistono problematiche insite nell'educazione ricevuta nelle scuole o nelle moschee da alcuni, una minoranza, di coloro che scappano dalla guerra e dalla sofferenza. Cresciuto ed educato su libri di testo che paragonano l'Occidente al male assoluto, cartine geografiche che non contemplano l'esistenza dello Stato di Israele, letture estremiste e radicali del Corano, c'è chi avrà difficoltà a inserirsi in un contesto di valori differenti. Pensiamo al rapporto uomo-donna. Dobbiamo prenderne atto. Non bypassare gli aspetti preoccupanti di una migrazione che durerà a lungo significa prendere coscienza che esiste una seconda fase, travagliata, in cui l'impegno di istituzioni, volontariato e cittadini richiederà una straordinaria assunzione di responsabilità e nessuna deroga. Accogliamoli nel migliore dei modi. Rispettiamo profondamente ogni credo. Mettiamoli nelle condizioni di imparare una lingua che permetta di cercare lavoro. Educhiamo i reticenti al rispetto delle leggi, punendo senza timori e con severità chi la legge viola. Lo dobbiamo a loro e alla nostra idea di democrazia. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Stefano Iesurum sugli immigrati, la verità è scomoda, dal Magazine 7 del 30 ottobre.